Allora, questa sera presentiamo questo libro. Io volevo fare alcune precisazioni, però dato l'età che c'è in sala, penso che siano inutili, però vale sempre la pena farmi, perché non è detto che l'età sia necessariamente portatrice di buon consiglio. Cioè, quello che devo dire è che quello che parleremo stasera, parleremo di un movimento, cioè che quel movimento, che quella partecipazione, che quella composizione di classe, che quell'organizzazione del lavoro non ci sono più, e di conseguenza non ha senso fare comparazioni con il passato. Quello che avrebbe senso, è, visto che abbiamo qua lui che non è la prima volta che si cimenta in libri documentaristici e di memoria, avrebbe senso, senza nessuna equidistanza, cercare di creare la possibilità di uscire con qualcosa che vada a criticare i limiti e gli errori che quel movimento ha fatto, al fine di contribuire a un'analisi, questa sì che potrebbe servirci anche per il futuro. Non voglio farla lunga, perché qui sarebbe il caso di fare un'altra riunione su questo argomento. Quello che voglio però sottolineare è che per ribellarsi è vero che bisogna non potere più sopportare, ma soggettività e spontaneismo non sono sufficienti. Necessita l'organizzazione, e questa organizzazione deve avere anche un programma. Ma passo al 77, perché sennò qui faremo un'altra riunione. Passo al 77 nel senso che è inevitabile ricordare di come comunque il 77, nella sua continuità e discontinuità, appartenga a quello che sono stato gli anni 68, 69, 70, cioè alle lotte che videro protagonisti operai e studenti. E qui vale la pena ricordare un'altra cosa, che tra il 1975 e il 1976 i contratti di lavoro, in primo luogo quello dei metalmeccanici, che allora erano la punta avanzata del movimento sindacale, andranno a regime e determineranno per diversi strati degli operai addirittura un triplicare la busta paga. Noi questo teniamolo presente, perché non è una faccenda secondaria. Però adesso passiamo, io ho pensato di fare una cronaca leggera di cosa succede in questi anni come fatti, per far entrare un po' nel clima, dove poi Emilio entrerà più approfonditamente. Nel 76, poco prima, le elezioni politiche vedranno quasi una parità tra DC e PC. Viene formato il governo Andreotti, con Cossiga ministro dell'interno, e per la prima volta il PC non si oppone a un governo monocolore democristiano e anzi lo sostiene con l'astensione. Questo è un fatto inedito. Ma qui il 31 ottobre di quell'anno, sempre il 76, dal 31 ottobre al 4 novembre c'è il congresso, il secondo congresso nazionale di lotta continua, che praticamente segna lo scioglimento dell'organizzazione, dove una parte non piccola finisce in un riflusso e alcune minoranze assumeranno atteggiamenti diversi, diciamo così, nei riguardi della lotta armata. il 15 dicembre, dobbiamo ricordarlo, a Sesto San Giovanni, durante un conflitto a fuoco con la polizia, Walter Alagia, un militante delle Brigate Rosse, viene ucciso. E adesso entriamo anche nel 77. Chiaramente io sono andato a segnare quegli episodi eclatanti. Lui sarà in grado di raccontarci centinaia, come nel libro vengono centinaia di episodi vengono raccontati. È il 17 febbraio a Roma, Luciano Lama, segretario della CGIL, viene cacciato dall'università dai compagni dell'autonomia. Durante il comizio organizzato dalla CGIL, il servizio donne del sindacato del CP e del PC avevano cercato di allontanare quelli che venivano chiamati gli indiani metropolitani, che esponendo un totem chiedevano ironicamente a Lama altri sacrifici. Gli autonomi intervennero con lancio di oggetti, eccetera, eccetera, eccetera, costringendo Lama e il suo staff alla fuga. Andiamo all'11 marzo, a Bologna, città simbolo del PC. In questa città viene ucciso con un colpo di pistola da parte delle forze dell'ordine il militante di lotta continua Francesco Lorusso, che con altri avevano contestato una riunione di comunione e liberazione. Il 12 marzo, anche in risposta a una manifestazione di protesta per la morte di Lorusso, a Roma vi è una manifestazione nazionale con oltre 50.000 partecipanti. Questa manifestazione diventa guerriglia urbana, c'è un tentativo di assalto alla sede della Democrazia Cristiana, c'è l'esproprio di un'armeria e un lungo corteo che scorrazza per la città e alla fine vede l'arresto di circa 150 manifestanti. Compare anche qualche arma dentro il corteo. Non le ho contate, non posso dirvi quante erano. No, mi guardava lui. Il 12 marzo a Bologna, qui c'è qualcuno che c'era, non lo vedo più dove è finito, però era qua. Alle 11:15 viene chiusa dalla polizia Radio Alice, che aveva dato la cronaca degli scontri per tutta la giornata dove morì Lorusso. Il 12 maggio viene uccisa Giorgiana Masi da poliziotti infiltrati e camuffati mentre partecipava a un corteo dei radicali in occasione dell'anniversario del referendum sul divorzio. 14 maggio a Milano l'agente di polizia Custrai colpito a morte. In quell'occasione viene scattata la foto del manifestante con passamontagna che impugna una P38 puntandola alla direzione della polizia, immagine che diventerà un'icona per anni e anni e anni per rappresentare il movimento del 77, farà il giro del mondo. Il 23 e il 25 settembre a Bologna si svolge il convegno nazionale contro la repressione, ultima assemblea del movimento, in seno al quale si registrano dissensi e spaccature insanabili. Questo convegno sancisce la fine politica del movimento e l'inizio, tra virgolette, del riflusso, nel senso che vi saranno anche entrate nei gruppi armati. Io sono andato un attimo in là per chiudere la faccenda, perché c'è stato un prima, abbiamo parlato 68-69, c'è stato un durante, l'abbiamo leggermente descritto, ma il 16 marzo del 78 c'è il famoso agguato di Via Fani con il sequestro di Moro ad opera delle Brigate Rosse. E voglio ricordare che nel dicembre del 70 Franco Priperno, in una pubblicazione chiamata Preprint, nell'articolo Dal terrorismo alla guerriglia, recita: coniugare insieme la terribile bellezza di quel 12 marzo del 77 per le strade di Roma, tra parentesi lui l'ha visto come un corteo di massa armato, quindi coniugare questo con la geometrica potenza dispiegata in via Fani. Ve lo lascio lì questa cosa, per dare altri due dati e poi finisco, perché nel dicembre sempre del 78 il generale Dalla Chiesa viene nominato capo divisione dei carabinieri per il coordinamento e la cooperazione alla lotta al terrorismo, cioè un organismo quasi a sé stante. Bene, questi sono dati che abbiamo preso leggendo gli atti della Commissione Moro, quindi tutti i dati che si possono andare a vedere. E in questi dati c'è scritto, è un allegato questo, che nei primi sei mesi di attività Dalla Chiesa fece realizzare 16.000 fascicoli informativi e 19.000 schede personali, 9.200 servizi fotografici, di cui 7.391 di soggetti e 1.451 di luoghi di interesse operativo. Nel secondo semestre vennero realizzati 25.221 fascicoli personali e 31.947 schede su persone sospette di militanza nell'area armata. Vengono eseguiti 1.427 servizi di pedinamento con 2.088 militari a disposizione aveva. Questi dati li ho detto per far capire, da una parte comunque dobbiamo sempre rapportarli alla popolazione, al movimento, eccetera, eccetera, però indubbiamente sono dati significativi, perché il cosiddetti, come venivano chiamati, l'acqua dove i pesci potevano muoversi era abbastanza larga. Finisco, perché comunque credo che all'autonomia gli sia riconosciuto, debba essergli riconosciuta l'autonomia, con l'autonomia intendo dire la tutto e il contrario di tutto che c'era dentro, ma diciamo però che a loro credo che vada riconosciuta di aver capito che era importante la rottura totale con il Partito Comunista e i suoi apparati, visti come avversari, in quanto il riformismo sostenuto da questo partito, dai suoi apparati, e il controllo che essi esercitavano sulla classe operaia erano tra i principali ostacoli alla lotta di classe. Questo loro l'hanno individuato, non avevano mai pensato, a differenza di altri, e potremmo parlarne altre volte, che con la propaganda del fatto, cioè spara qui, colpiscene uno per educarne 100, si sarebbe convinti gli operai a venire con te. Basta, l'ho fatta troppo lunga e lascio che le migliori racconti del libro. No, tieni. Ma allora no, beh, tanto giusto per chiarire, perché la presentazione di Marco, che va perfetta, dico, però il libro non parla del movimento del 77, cioè deve essere chiaro immediatamente, perché altrimenti chi prende in mano il libro poi si troverebbe un contenuto che non corrisponde a quello che si pensa. E il sottotitolo comunque lo dice chiaramente, parla della lotta armata nel 77. Evidentemente all'interno c'è anche tutta una serie di cose, di fatti, di persone che comunque ovviamente sono il movimento, sono anche il movimento. Quello che volevo dire come premessa era un passo, anch'io un passo indietro, diciamo, ed è il, diciamo, chiarire che gli anni 70 sono stati l'ultimo periodo, io credo, nel mondo occidentale, dove è stato, in Italia, dove è stato possibile immaginare un cambiamento radicale della società, in questo caso italiana. Il movimento è stato talmente pervasivo, è stato talmente incisivo nella società di quel periodo che chiunque vuole fare la storia di quel periodo non può non tenere conto della storia del movimento. E quindi quando si parla di storia degli anni, del movimento degli anni 70, movimento, lotta armata, quello è una storia con la S maiuscola. Io per quanto riguarda in generale questo movimento individuavo quattro caratteristiche: una è che è anticapitalista, una che era internazionalista, un'altra che era antiautoritario e la quarta che è che era un movimento di classe, cioè che comunque che il riferimento era la classe lavoratrice, la classe operaia. Ecco, nel momento in cui questo movimento è stato sconfitto, diciamo nella presentazione, nella ricostruzione che ne viene fatta ancora oggi, immediatamente è stato utilizzato il termine, che non era nuovo perché veniva dalla Germania, ma comunque in Italia è stato utilizzato in maniera diversa, degli anni di piombo. E devo dire che come scelta per chi voleva presentarla in una certa maniera è stata una scelta azzeccata, nel senso il piombo è un materiale pesante, un materiale malleabile, è un materiale di colore grigio e quindi immediatamente diciamo che chi individua un periodo storico, un movimento all'interno di un periodo storico con il termine utilizzando il piombo, immediatamente fa pensare a anni pesanti, a anni tristi, a anni grigi, a anni ambigui, a anni che si possono tirare un po' di qui, un po' di là. Quindi da quel punto di vista lì è senz'altro stata una scelta azzeccata dal loro punto di vista, perché è indirizzato tutto poi sui fatti di sangue. Il piombo delle pallottole, no? Evidentemente. E quindi da quel punto di vista lì è stata, ecco, poi c'è stata poi tutta comunque una serie di ricostruzioni del periodo che sono state ricostruzioni a mio parere molto parziali, molto anche tecniche se vogliamo. C'è stata la ricostruzione giudiziaria che è andata a interessarsi evidentemente dei fatti penali di quello che è interessato, è vero, alla lotta armata, ma anche per quanto riguarda il movimento. E c'è stata una ricostruzione giornalistica che è stata quella, diciamo, che però è legata alla cronaca, alla notizia, quindi si interessa più dell'aspetto della news più che del contestualizzare o dell'analizzare continuo a chiamarlo per il momento il movimento degli anni 70, poi dopo parlerò in specifico della lotta armata. C'è anche da dire che però anche all'interno dello stesso movimento si sono posti sostanzialmente una serie di veti quasi sulla ricostruzione di quel periodo e quindi hanno impedito a mio parere di dare anche questi una visione complessiva di quello che è successo. Quindi abbiamo da una parte quelli che una parte che sostiene ancora oggi che non se ne può parlare in termini critici fino a quando ci sono dei compagni in carcere. C'è l'aspetto, diciamo, invece quello speculare, se vogliamo, che è quello, diciamo, di una certa parte dell'area della dissociazione che sostanzialmente sostiene che, lo scrivono, quindi dico un numero ma non è un caso, che il 90% delle persone che hanno partecipato al fenomeno armato si possono definire pentiti o dissociati. E certo che a quel punto lì parlare, dibattere di quel periodo, quando diciamo uno di fatto va a rinnegare addirittura, diciamo, il concetto della lotta di classe, penso che sia anche poco interessante da dibattere all'interno di chi invece vorrebbe tirarne fuori qualcosa da quel periodo storico. Cioè il risultato è che peraltro le persone che invece, cioè il problema è che in sostanza c'è stato un momento in cui o ti schieravi da una parte, che dicevo prima, o ti schieravi dall'altra. Il resto che ha partecipato anche a quella storia sostanzialmente, a mio parere, ha fatto finta di niente, non è entrata perché era schiacciata da tutte queste ricostruzioni. Il risultato qual è? Il risultato rimane unico per tutti, è che la ricchezza e la completezza anche di tutto quel movimento, che appunto non è solamente la lotta armata, ma di cui la lotta armata è un di cui, non ha avuto il rilievo e non ha avuto la possibilità, non si è tirato un bilancio, secondo a mio parere. Un bilancio che invece sarebbe ora di tirare, anche sulla base del fatto che, partendo da almeno da due considerazioni. Uno, che quel ciclo di lotte è finito. Lo so che sembra una battuta, ma qualcuno in qualche maniera sostiene che certi tipi di percorso sono ancora in atto. E in secondo luogo, aspetta che non... e che sono anni ripetibili, cioè quel tipo di movimento è irripetibile. È irripetibile per quello che diceva Marco prima, perché c'è cambiato un contesto, pensiamo solo al contesto internazionale, perché la composizione di classe è completamente diversa, e quindi immaginare un ripetersi, diciamo, di quel movimento in quei termini, io credo che sia molto difficile. Se ne presenterà in altri modi, in altri termini, assolutamente, probabilmente più radicali, eccetera, eccetera. Ecco, quel movimento, abbiamo detto, un movimento di donne, di lavoratori, di detenuti, di studenti, un movimento che è stato molto forte, è stato molto è la dimostrazione del fatto che fosse arrivato a anche a affrontare dei noccioli, diciamo, di un possibile passaggio, se non vogliamo parlare di rivoluzione, parliamo almeno di cambiamento radicale, è da quello che ha messo in piedi il potere, lo Stato, per contrastarlo. Perché poi i fatti contano, a mio parere, contano più a volte di alcune... Allora, stragi, tentati colpi di Stato, lo stesso ruolo della P2, compromesso storico, legge reale, emergenza terrorismo, leggi sui pentiti, governi di unità nazionale, patti sociali, repressione delle piazze, carceri speciali. Ma io in più aggiungo anche alcune delle conquiste, alcune delle stesse conquiste del movimento operaio, in particolare, che sono state vissute immediatamente e sono state effettivamente delle grandissime vittorie. In realtà, diciamo che lo Stato, e in questo caso il PCI ha avuto un ruolo sicuramente determinante, le ha utilizzate poi per soffocare o per depotenziare quel movimento. Io in particolare mi riferisco allo Statuto dei lavoratori, mi riferisco in particolare al punto unico di contingenza e in particolare alla cassa integrazione. Tornando all'interno, ecco, la lotta armata fa parte di questo movimento sicuramente, e quindi ne condivide parte dei successi e parte dei fallimenti, degli insuccessi e viceversa. Perché ho scelto per spiegare il passaggio della lotta armata, cioè come si arriva alla lotta armata del 77, si arriva attraverso chiaramente un dibattito che parte da perlomeno dalla fine degli anni 60, in particolare poi del 70 con le Brigate Rosse che nascono, ma secondo me il punto di svolta per quello che sarà poi la lotta armata del 77 è un anno, che è il 1973, dove coincidono tre eventi che veramente cambiano le carte in tavola. Cioè, cambia proprio la storia, non solo del movimento, perché poi tutte le organizzazioni dovranno prendere atto di quello che sta avvenendo, ma in particolare anche all'interno della lotta armata. C'è stata l'occupazione dei fazzoletti rossi alla FIE di Mirafiori nell'ambito dell'avvertenza contrattuale, c'è stato il golpe fascista di Pinochet in Cile e ci sono state la presentazione delle tesi del compromesso storico. Ecco, nel libro io ho fatto un capitolo, mi è già stato detto che però è troppo poco, bisognava spiegarlo di più, sicuramente è vero, in cui cerco di spiegare in sintesi quali erano all'interno dell'area che si stava avvicinando o era dentro già nella lotta armata, come ci si avvicina dal 73 al 77, cioè come evolve il dibattito e come si vedono già che ci sono delle differenze all'interno di diverse aree di dibattito, che poi porteranno appunto a per esempio formazioni combattenti diverse. Ecco, quello, ecco, perché il 77? Beh, il 77 evidentemente, per quello che poi ha raccontato Marco prima, che ha elencato, è stato un anno uno degli anni più assolutamente più importanti nell'ambito degli anni, del movimento degli anni 70. Perché? Perché c'è l'esplosione delle lotte studentesche e dei lavoratori precari dell'università. Quindi un movimento che ha che segna delle continuità, ma segna anche delle grosse discontinuità con il periodo precedente e con una partecipazione assolutamente eccezionale. Allora, tra le cose che secondo me caratterizzano anche il movimento del 77 in questo caso è innanzitutto quello che diceva Marco, cioè il fatto di aver riconosciuto nel riformismo un nemico, cosa che non era così scontata in quel periodo assolutamente. Secondo me se ne è fatto anche poco tesoro di aver individuato effettivamente qual era il vero nemico del movimento rivoluzionario in Italia, cioè, poiché molti erano ancora, secondo me, erano ancora fermi al fatto che era la Democrazia Cristiana il faro in assoluto. Secondo me, poi magari ne possiamo parlare, in realtà il PCI aveva assunto un ruolo che aveva forse addirittura travalicato quello della DC in quel senso lì. E il secondo aspetto è quello legato all'uso della violenza, che mentre nel periodo precedente era comunque presente e dispiegata, per l'amor di Dio, però diciamo che nel 77 è quasi esposta, non so come dire, ne diventa uno degli aspetti caratterizzanti, a mio parere. Cioè, manifestazioni violente ce ne sono sempre state, però diciamo manifestazioni dove l'uso delle armi da fuoco, io parlo ovviamente non in generale sull'Italia, ma sicuramente Milano, sicuramente Roma, in parte Bologna e anche Torino, viene fatto in maniera abbastanza evidente, no? Lo stesso, poi riprendo anch'io una parte sul convegno di Bologna della repressione, quando c'è lo scontro al Palazzetto dello Sport tra, diciamo, le due anime più forti, a mio parere, del movimento del 77, in quel momento, che si affrontano al Palasport, che sono, diciamo, quei militanti del movimento che si riconoscono in lotta continua, nel quotidiano, e dall'altra parte l'area dell'autonomia operaia, c'è uno scontro effettivamente molto violento, ma non è uno scontro sicuramente anche di egemonia, diciamo, su quello che era il movimento, ma è stato anche uno scontro di due visioni diverse in merito alla lotta armata. Da una parte abbiamo diciamo l'area di lotta continua, che ormai da tempo ha abbandonato l'idea di praticarla, mentre dall'altra parte abbiamo l'area dell'autonomia operaia che la esalta. Quindi il 77, il 77 però non è stato solo il movimento, diciamo, studentesco delle università, e per quanto riguarda la lotta armata diciamo ha presentato delle novità. Intanto, vabbè, le Brigate Rosse si rinsaldano alla loro posizione, in particolare a Roma. Nella fine del 76 nasce la colonna romana, che poi inizia ad agire pienamente nel 77. Nascono una serie di organizzazioni combattenti, che sono Prima Linea, che sono le Brigate Comuniste, Formazioni Comuniste Combattenti e Azione Rivoluzionaria. E in particolare poi c'è l'esplodere dello spontaneismo armato o guerriglia diffusa, che dir si voglia. Qualcuno, so che il termine terrorismo viene contestato, ma qualcuno ai tempi parlava anche di terrorismo diffuso. Comunque sarebbe carino andare a rivedere, è una definizione sbagliata, perché non si tratta di terrorismo, però non era così demoniaca il termine, secondo me. Comunque, per fare dei numeri, come diceva Marco, mentre il numero di azioni violente di segno politico, ovviamente di sinistra, nel 77 sono 2128, questi sono dati del Ministero degli Interni, il numero degli attentati, quindi diciamo di lotta armata, se vogliamo semplificare, passano da 263 a 777 nel giro di un solo anno. Quindi direi che un incremento esponenziale. Quindi è una novità, se vogliamo, anche questa, no? Del 77. Ecco, quello nel libro io cerco di puntare l'attenzione su un aspetto della lotta armata in particolare, che è la guerriglia diffusa. Inizialmente io l'avevo messa come ultimo capitolo, perché si va sempre in ordine, tra virgolette, di importanza storica, quindi prima le Brigate Rosse, poi prima lì, eccetera, eccetera. Poi dopo una discussione con alcuni compagni che avevano letto le bozze, insomma, mi è stato su: ma tu cos'è che volevi far emergere? E quindi l'ho spostata come primo capitolo di lotta armata del 77, la guerriglia diffusa. È un capitolo corto, effettivamente sono solo sei pagine. Sette pagine? Vabbè, meglio. No, volevano essere. Non è guerra, volevano essere molti di più. Ma effettivamente, cioè, il tipo di esperienza, quella guerriglia diffusa, è difficile da raccontare più per esteso, se non come ho cercato di fare, e poi vi spiego. Allora, cos'è la guerriglia diffusa? La guerriglia diffusa sono gruppi spontanei o microorganizzazioni che fanno azioni di armate, attentati, in forma spesso estemporanea, di livello tecnico classicamente molto basso, anche molto basso, e che però hanno nel 77, secondo me ci sono due particolarità di questa cosa. Una è la quantità di azioni armate fatte all'interno della guerriglia diffusa. Io ho fatto, allora, per motivi editoriali, cioè sostanzialmente prezzi di copertina, sono riuscito a far pubblicare in PDF un questo, sostanzialmente, che potete andare a scaricarvi sulla rivista Macchina di Derivia Prodi, una rivista online, nella rubrica Scavi. Sono 100 cartelle PDF, che voleva dire almeno 150 pagine di libro. Quindi, ecco, non è un lavoro da leggere, diciamo, è un lavoro da sfogliare. È semplicemente il lavoro che ho fatto di documentazione di tutte le azioni che sono riuscito ovviamente a documentare, ce ne saranno tante di più, di quell'anno, e quindi sono uscite 100 cartelle PDF. Ecco, sfogliandole, secondo me ci si rende conto di un fenomeno che non è poi così conosciuto. Il secondo aspetto, secondo me, interessante della guerriglia diffusa è il fatto che questa guerriglia sostanzialmente riusciva. Allora, quelli che facevano questa guerriglia diffusa non erano militanti combattenti, erano persone del movimento che occasionalmente facevano azioni armate, giusto? Quindi legale e illegale. La cosa incredibile, secondo, interessante e incredibile che ha questa guerriglia diffusa è proprio il fatto di riuscire a muoversi per campagne nazionali senza che ci fosse una decisione centralizzata. Non c'era un'organizzazione che decideva: ok, parte la campagna contro, e allora l'ha detto, che ne so, Mimì, e allora tutti. No, semplicemente, spontaneamente, gruppi diversi in situazioni completamente diverse, con livelli tecnici diversi, andavano a fare delle vere e proprie campagne. E quando dico campagne, vi dico quelle che io ho cercato di, secondo me, che ci sono state all'interno del 77, che sono la campagna contro le festività soppresse, la risposta alla repressione, pensiamo alla morte appunto di Lo Russo e alla morte di Giorgiana Masi, ma anche all'arresto degli avvocati del Soccorso Rosso, una campagna contro il ruolo dei giornalisti, una campagna contro la proiezione di film osceni o reazionari. In particolare c'era questa contro Entebbe, che faceva una ricostruzione della liberazione di ostaggi rapiti dalla RAF da parte dei servizi segreti israeliani, che era un film estremamente reazionario, e quindi facevano azioni contro i cinema o impedivano la proiezione dei cinema dove veniva proiettato appunto questo film. L'aumento delle tariffe dei trasporti, contro il lavoro nero, contro le provocazioni neofasciste, quindi come la morte di Walter Rossi, contro la DC, contro il controllo sul territorio, e quindi si colpiva carabinieri, polizie e carceri. Ma su tutte, quella che secondo me è stato l'esempio più eclatante di campagna fatta nei termini che ho spiegato prima, è stata la campagna antitedesca, per cui alla morte di Bader, Enslin e Raspe, militanti della RAF nel carcere speciale di Stammheim, nel giro di pochissimo tempo su tutto il territorio italiano ci sono, credo, non so, almeno 100 attentati contro beni tedeschi occidentali. Direi una campagna coi fiocchi, come si potrebbe dire. Ecco, il seguito del libro, che è poi la parte più grossa, diciamo, attraverso i documenti delle formazioni e attraverso la documentazione di tutte le azioni che sono state fatte da queste delle organizzazioni armate, però, quindi delle formazioni che agivano in termini esclusivamente o quasi esclusivamente in termini di lotta armata, e quindi intendo Brigate Rosse, evidentemente intendo l'area diciamo ex Senza Tregua, degli ex comitati comunisti per il potere operaio, quindi le unità comuniste combattenti, prima linea, e non in senso totale ma in senso parziale della propria attività, dei comitati comunisti rivoluzionari, che parimenti ai collettivi politici veneti hanno un'organizzazione che ha un'attività legale ma che al suo interno ha strutture militari, quindi fanno la lotta armata. No, perché qualcuno invece sostiene che i Cocorini non la facevano. Vabbè, è un'opinione anche quella. In più c'è anche Azione Rivoluzionaria, non dimentichiamoci che non rientra, diciamo, nei filoni, nei grandi filoni classici della lotta armata, ma bisogna tenere presente che anche l'area anarchica aveva un'opzione combattente, appunto Azione Rivoluzionaria. E oltre a queste c'erano le brigate comuniste e le formazioni comuniste combattenti, che nascono all'interno di un dibattito intorno a diciamo la rivista Rossa, diciamo all'area di Rosso. Qui sarebbe carino spiegare come si arriva alle brigate comuniste combattenti, perché l'area di Rosso, a differenza di quella di Senza Tregua, che immediatamente, come si costituisce, trova la lotta armata come uno dei suoi fari, in realtà l'area di Rosso non ha questo. Però diciamo che le condizioni del movimento, soprattutto a Milano, portano alla formazione, in realtà anche all'interno di una parte di quest'area di dibattito, di una formazione combattente come erano le brigate comuniste, e poi successivamente, quando si sciolgono le brigate comuniste, entrano in gioco le formazioni comuniste combattenti. Non so se mi fermo, sì. Come, vabbè, questo qui era spiegare un po' il contenuto del libro, ecco. Io dopo anni che discutiamo di questo, che discuto e presento libri su questo pezzo di storia mia, di nostra storia, e siccome so che dobbiamo entrare in quegli elenchi che faceva Marco prima, 14 marzo, 11, no? E visto che parliamo del 77, quando mi sono messo a scrivere la scaletta per stasera, ricordando il 77, sentivo l'esigenza di farmi una canna, perché dovevo evadere in qualche modo, no? Perché so che bisogna entrare. La canna l'ho trovata in una poesia di Domenico Alvino, che in una sua raccolta di Sulle tracce di Orderling scrive una poesia che si chiama Del fuoco cosa resta, e dice: ditemi che non è vita questa del fuoco, che si innalza, produce la sua fiamma, si riavvolge, distrugge sorridendo, e quando la materia che lo nutre si esaurisce, lotta, fumiga e si spegne. E infine, quanto resta è cenere. Ma attenti, dentro di voi scintille cova, perché mi dà forza questa poesia. uno, perché dico che parlare di quegli anni è parlare di vita; due, io non dispero mai che qualche scintilla possa scoppiare sempre. E quindi è in quest'ottica che leggo il libro di Emilio, sul quale mi pare che alcune considerazioni, cioè quello che mi pare si possa dire, che nella discussione, ve li pongo a voi, sono questi. Il libro di Emilio è su un anno, cioè parte il primo di gennaio e finisce il 31 di dicembre. E quindi, diciamo, poi siccome io conosco la storia per aver discusso con lui, cioè va letto come una sorta di annale, no? È come se uno va nella biblioteca e prende di un annale il 77, perché altrimenti uno dice perché, no? Come gli annali del Corriere, delle cose eccetera, perché c'è, ovviamente c'è un prima e c'è un dopo, no? E questo è importante, perché altrimenti non si comprendono alcune connessioni, o il tentativo che lui, non solo in questo libro ma anche nella sua ricerca che fa su altri libri, tenta di tracciare, almeno per quanto riguarda la storia delle forme armate, diciamo, di quel periodo, il filo che ha condotto sia le organizzazioni sia il loro dibattito interno. Un secondo elemento che mi pare importante è che lui nell'introduzione fa riferimento a un ritardo in questa ricostruzione storica. E il ritardo, lui dice, è dovuto a due elementi sui quali concordo. Il primo non è una colpa, nel senso che noi per i primi 10 anni, forse anche 15, diciamo, non ci siamo posti il problema della ricostruzione, perché ciò che ci guidava era un motto, no? Per chi è stato in carcere, eccetera, lo sa, si diceva: non c'è verità senza libertà, cioè possiamo ricostruire quando la gente esce dal carcere. Con la gente in carcere non si può ricostruire, se non altro perché in quanto detenuti appartenenti a quella storia sei soggetto a ricatto stando nel carcere. Questo però ha ritardato di fatto diciamo la ricostruzione storica. Si pensi che il primo lavoro decente è del 97, quando Sensibile alle Foglie, Renato, fa il progetto Memoria. No, e nonostante siano passati più di 20 anni, erano passati 20 anni da quel famoso 77, quindi i termini non sono così. Un secondo elemento, e concordo su questo, è stato il problema della dissociazione e del pentitismo, ma io dico è stato un problema, a parte il problema giudiziario eccetera, è stato un problema proprio sul piano del soggetto, no? Diciamo, Lacan diceva: un soggetto per ricostruirsi deve riconoscersi. Quel fenomeno dell'associazione aveva creato una cesura forte nel riconoscersi di quel soggetto. È come se un processo di soggettivizzazione si fosse interrotto, avesse venduto o fatto commercio del proprio soggetto per altri motivi. Questi due elementi ancora oggi pesano, no? Uno ovviamente pesantemente, l'altro per posizione politica assunto, nella ricostruzione storica. Io devo dire anche che la cosa che ha pesato ancora di più come terzo elemento è che di fatto ricostruzioni collettive non ce ne sono. Sono quasi tutte memorialistiche o ricostruzioni individuali. Questo forse non dovuto solo al tempo, ma anche all'epilogo delle organizzazioni di quel movimento che chiamiamo movimento di lotta armata. Io ho trovato ben fatto, diciamo, il libro sia nella parte descrittiva, cioè le varie organizzazioni che c'erano, che sono nate, il dibattito esistente al loro interno, il rapporto tra l'organizzazione stessa e quella che si chiamava la classe o il corpo sociale di riferimento, che allora incominciavano a non essere solo la classe, sia dalle formazioni più classicamente ML fino alle formazioni, diciamo, libertarie come azione rivoluzionaria. Secondo me, leggendo attentamente, specie il dibattito interno alle organizzazioni, si può notare anche un altro elemento, come anche rispetto alle proprie posizioni, alcune e forse tutte hanno a un certo punto accelerato, fatto un processo di accelerazione, no? Certamente leggendo lo scontro sociale in atto, ma anche rispetto alle proprie tappe, alle proprie, diciamo così, ai suoi propri presupposti teorici e organizzativi, ha dato delle accelerazioni improvvise, forse proprio nel 77. Questo mi pare che dal libro di Emilio venga abbastanza fuori. Faccio riferimento a due cose, e forse sono gli elementi che possiamo discutere, sono queste. Dicevo ad Emilio, quando ci siamo visti, che non mi dissento, perlomeno, e porrei un problema definitorio su quella guerriglia, diciamo così, armata. Io credo che la ricchezza del 77 sta proprio in quello, e non definirei lotta armata quella guerriglia, ma non perché non faceva azione armata, cioè voglio dire, qualche anno prima, l'anno prima, c'era stato Ramelli a Milano, ma non è che il gruppo che... 75. Se due anni prima, non è che il gruppo che l'aveva fatto, nonostante aveva provocato una morte, era uno dentro la lotta armata, cioè non è l'azione che determina l'essere dentro la lotta armata, e la strutturazione organizzativa, il progetto di lotta armata dentro cui stai. Io dico che la forza del 77, e per questo credo che Piperno si sbagliava, perché la terribile bellezza e la giovane competenza per certi versi non erano coniugabili, erano per certi versi contrapposti. Nel 77 nasce un movimento che non è oggetto di questo libro, ma nasce un movimento che incomincia a pensare all'uso della violenza come immanente alla propria vita, non dentro la concezione dell'organizzazione, del partito, eccetera. Marco diceva prima, ci vuole il partito. E lo volevano tutti i partiti, ci avevano rotto i coglioni per 50 anni nella tradizione socialcomunista, che senza il partito non si faceva niente. La novità è proprio questo, che il movimento del 77, per usare una parafrasi di uno famoso, cioè delle 33 lezioni su Lenin, quel movimento era la 34esima, si poneva fuori, incominciava a discutere che forse quel che dopo abbiamo chiamato Foucaultiano, eccetera, cioè quella borsa degli attrezzi non funzionava più, e non lo faceva in quella direzione. Tant'è vero che quel movimento incontra sostanzialmente forme ideologiche, filosofiche, eccetera, che sono fuori dalla tradizione comunista, incontra i francesi, eccetera. Perché, secondo me, poi dopo dice finito il movimento, io non credo, ho mai creduto che la lotta armata ha fatto finire il movimento, io dico che è stato il contrario. E uno mi chiede sempre la domanda, ma tu perché hai fatto alcune scelte? Io sono convinto di una cosa. Lo spartiacque sta proprio lì, quando finisce quel movimento diventa univoca la forma armata delle organizzazioni armate. Senza fare l'elenco, il 77, i morti provocati dalle organizzazioni armate sono tre. Sono Fulvio Croce, Casalegno e Perpiene Amati Mauro. No, poi c'è Ciotta a Torino. Ciotta, Ghedini e cose in realtà, diciamo, non sono intenzionali, sono scontri. No, sono, sì, no, Ghedini è grazioso, insomma, con Fontana. Nome e cognome, no, Ciotta è quello a Torino. A Rò c'è stato quello, Ghedini era qua. Ghedini, Ciotta è un poliziotto a Torino, esatto, fuori. Guarda, insomma, sono tre o quattro. Il 78, sì, beh, certo. Il 78 sono 28 i morti provocati da, è unica la direzione, tutti quegli attentati eccetera vanno pian piano diminuendo, e questa è la differenza tra il 77 e il 78. L'esercizio della violenza, che era di massa, era del corteo eccetera, per carità, ci sono stati Custrà, Passamonti eccetera, però mi pare questo l'elemento centrale. Perché dopo si ingrossano le file della lotta armata. Io dico che quella radicalità espressa nel 77 è stata, come dire, finisce, e quella radicalità in qualche modo, almeno da parte della milita- del tessuto connettivo dei compagni, doveva andare da qualche parte. Noi eravamo cresciuti, la mia generazione, pensa, voi eravamo cresciuti con le armi della critica, non sostituiranno mai la critica delle armi, la democrazia, i fucili in braccio agli operai, cioè, insomma qualcuno ci doveva provare a un certo punto, e la strada che abbiamo, io sono convinto che siamo saliti su una macchina che era vecchia, non era la macchina nuova, ma è quello lo sbocco che abbiamo dato a quella radicalità, e diciamo quella affermazione radicale di vita è andata in quella direzione. Io dico che questi sono gli elementi su cui noi dobbiamo discutere se vogliamo riaprire il dibattito su come, di quello che diceva Marco, a un certo punto noi dobbiamo finire, e io concordo, di ragionare su quella nostra storia quasi usando una categoria speculare al nostro nemico. Siccome ci accusano che sono anni della violenza, noi dobbiamo rispondere col fatto sì, ma eravamo tutti violenti. Forse dobbiamo incominciare ad entrare nel merito e a guardare i passaggi dove ci sono stati gli errori, le sovravalutazioni, eccetera. Aggiungo e finisco, è evidente poi che di lì inizia anche un altro problema, quello che è il corpo sociale di riferimento, quello che si chiamava la classe, che inizia a perdere, e poi l'80, l'81, quella cosa, diciamo, si definisce la sconfitta operaia. Su questi elementi credo che si debba aprire il dibattito. Grazie. Ecco, se poi qualcuno vuole fare qualche domanda, qualche considerazione, viene qua, però siccome siamo anche in streaming con la radio, necessita che venga qua, perché sennò poi in radio non si sente. Tu stai fumando abbastanza. No, è giusto, intanto che pensate, rispetto a quello che diceva degli annali, effettivamente il libro nasceva come un libro che doveva, non questo, cioè era un grandissimo libro, un volumone che doveva trattare tutto il movimento rivoluzionario del 77, e quindi con un grande spazio a quello che diceva Gino. Non è stato possibile, quindi diciamo che ho tirato fuori questo in particolare. È anche vero che dovevano essere degli annali, perché la mia intenzione di quando ero piccolo, diciamo, era di fare quantomeno tre annali, era il 76, 77, 78, perché secondo me c'erano dentro, c'era tanta roba, non solo della lotta armata, in quel senso lì. Sì, io volevo, l'ultima cosa che forse non abbiamo, però che è intimamente connessa un po' a quello che diceva Gino, cioè di questo calo della lotta armata, chiamiamolo in questo modo. Calo della guerriglia. Sì, della guerriglia. C'è stato un passaggio che secondo me, quello spesso si dimentica, mi riferisco sempre dentro quel periodo dei 55 giorni del sequestro Moro, che in un'assemblea a Roma il movimento chiede alle Brigate Rosse di liberare il presidente della Democrazia Cristiana. Certo, molto probabilmente è una richiesta, come dire, sotto certi aspetti col senno di dopo pensiamo che era quasi infantile, perché le BR dentro la loro logica non avrebbero mai potuto fare questo, perché era chiaramente, loro erano partiti, il fatto che l'operazione avrebbe dovuto condurre al loro riconoscimento come controparte, cosa folle, perché figuriamoci se lo Stato poteva riconoscerli. Però a quel punto dovevano fare fuori Moro per dimostrare che esistevano. Però quel passaggio, credo che anche quello sia stato un momento, la richiesta doveva essere fatta, gli altri non potevano esaudirla. tra parentesi, come tutti sapete, quella operazione, come dicevamo prima, geometrica potenza, nella realtà segnerà poi la fine, perché quello che verrà dopo non sarà il rafforzamento di questa geometrica potenza, ma sarà pian piano, poi con il sequestro Dozier, eccetera, eccetera, praticamente la fine dell'organizzazione combattente. Se qualcuno vuole venire qui, dire qualcosa, una domanda, eccetera. Ma io, se volete, vi dico alcune considerazioni mie, così, su... Prima di te, poi... Ah no, se ci sono, certo, no, se no. Argentina, Francia... Ah, se qualcuno sa... Adesso sto guardando. Sono ai rigori, no, era più che altro che aspetto anche... facciamo uno stop. La bambina, sono ai rigori. Protesta contro la Calusca, che organizza le cose con il mondiale a finale dei mondiali. Dove qua si dimostra che noi nell'operazione Qatar non abbiamo preso un cazzo, chiaramente. Purtroppo, fammi purtroppo. Scherzo, no, beh, io era sempre riprendendo un po' quello che diceva Gino. Allora, quando ne parlavo di questo libro, io l'ho pubblicato con Deriva Prodi, diciamo che però il lavoro precedente doveva uscire con l'edizione Colibrì di Renato Varani, e poi insomma, il tempo è passato e non era possibile aspettare oltre. Vabbè. Però quando si parlava, si diceva che comunque erano tutti anni in cui sostanzialmente tutti in qualche maniera si teorizzava che doveva essere una lotta di lunga durata. E come battuta ci facevamo, in realtà è stata una lotta di breve durata, perché se si vedono le esperienze di lotta di lunga durata, diciamo, in giro per il mondo, l'idea di riuscire a arrivare a una situazione di guerra civile in tempi veloci come si pensava, come si teorizzava e come in qualche maniera si agiva nel senso della guerra civile, ha portato a un'accelerazione anche di processi armati. Stiamo parlando di lotta armata, quindi mi riferisco a quelli in particolare. Quindi pensare che in Italia ci fosse effettivamente una guerra civile in atto era una forzatura, sicuramente, a mio parere, e questo ha portato anche a degli errori, secondo me, anche dal punto di vista militare, perché per esempio il tipo di guerra che si è svolta tra le organizzazioni combattenti e lo Stato ha rischiato e ha forse anche diventata a volte quella che diceva anche Gino prima, una guerra speculare, che è un errore, perché è un errore nel senso che non è che la guerriglia può fare una forma di guerra speculare. Per esempio la resistenza italiana era sostanzialmente, in particolare quella italiana, ma poi in tutte le resistenze europee, c'erano due tipi di guerriglie. Una era quella, diciamo, inglese, che era una guerra militare e quindi era una guerra speculare, era una guerra di un esercito contro una forma di partigiane che si contrapponevano in maniera militare, quindi non c'era un aspetto che non fosse lo scontro frontale, no? Quindi, mentre invece c'era anche un'altra guerriglia, che era quella che poi venne poi chiamata la resistenza tradita, che all'interno della guerra partigiana vedeva una forma di guerra che aveva dei valori, non era una guerra per cacciare il fascismo, era una guerra per cacciare il fascismo e per costruire una società, diciamo, in quel senso, in quel caso lì, di socialista, eccetera, eccetera. Quindi secondo me anche negli anni 70 si è andati incontro, non volendolo, ma invece è una forma anche di guerra speculare. per cui a un certo punto erano degli apparati che si scontravano. Questo deriva anche da diciamo impostazioni anche ideologiche per alcune formazioni sicuramente, poiché quando tu io credo che ci sia stata una lettura, cioè la guerriglia non era una novità, c'erano state esperienze precedenti, secondo me c'è stata una lettura tra virgolette un po' facilone in Italia di quella che è la guerriglia e delle esperienze, delle diversi modi di fare guerriglia che c'erano già stati. Io credo che sia stato anche semplicemente un problema proprio di materiale culturale che mancava, cioè non c'erano poi dei rapporti reali nel 77, forse di più, ma io dico proprio nel processo, in tutto il processo che poi ha portato a quello che è successo, che è avvenuto. E diciamo che lo schema che è stato utilizzato in Italia è stato un po' uno schema vicino alle guerriglie sudamericane, secondo il mio parere. Allora partiamo dall'idea che le guerriglie sudamericane sono state tutte sconfitte e anche lì purtroppo per loro ci sarà pure un motivo. E però il fatto di sposare quei tipi di teorie guerrigliere ha portato anche all'idea, per esempio, di una visione dell'avanguardia armata come l'avanguardia tout court, mentre invece a mio parere doveva rimanere l'idea che comunque l'avanguardia si costruisce all'interno di un processo rivoluzionario, ma un processo reale di lotte, che sono le lotte di massa comunque, perché una guerriglia, una guerra rivoluzionaria non può fare a me, non è solo una guerra armata, ma è anche una guerra che viene svolta su più piani, che sono il piano politico, che sono il piano ideologico, eccetera. E quando diciamo uno si auto-identifica come avanguardia, cioè il fatto, cioè se io sono militante di quell'organizzazione automaticamente sono un'avanguardia, non è sempre vero, e soprattutto un'avanguardia non deve essere riconosciuta solo al proprio interno, ma deve essere riconosciuta in una maniera molto più ampia. Secondo me questo è avvenuto per un certo numero di anni sicuramente, e quindi è stato un processo che secondo me gradualmente stava andando in una direzione che poteva dare dei risultati. Poi c'è stata un'accelerazione, l'accelerazione io la vedo partire dal 73, perché secondo me sono avvenuti dei fatti che hanno cambiato le carte in tavola. Poi il problema è, allora, a posteriori dire che ci sono stati degli errori è chiaramente molto facile, però in quel momento lì abbiamo, cioè, l'occupazione di Mirafiori, 73, cioè, viene occupato lo stabilimento più grande d'Italia dalla classe operaia più forte d'Italia, cioè più di quello a livello di autonomia operaia, intesa come l'autonomia operaia diciamo originaria, non quella organizzata, perché sembrava un punto di non ritorno, e lì ci sono state tante letture diverse. C'è stato chi, per esempio, come Lotta Continua, l'ha letta come dire ok, abbiamo raggiunto un picco, ma questo picco di autonomia operaia in realtà non ha prodotto quello che volevamo. Cioè il PC e il riformismo, il sindacato, di fatto ancora ha un controllo della maggioranza della classe operaia. E quindi fa una scelta di, in qualche maniera, fa un passo indietro e diciamo accetta l'idea di rivolgersi alla medietà, quella che una volta si diceva la medietà operaia, e quindi accetta per esempio di rientrare negli istituti di rappresentanza diciamo istituzionali della classe operaia, che erano per esempio i consigli di fabbrica, cosa che prima invece rifiutava. Quindi per esempio ne dà una lettura di quel tipo lì. C'è chi invece sostiene, ad esempio le Brigate Rosse sostengono un'altra cosa, sostengono che l'autonomia opera, e questo è lo stesso, questo poi mi ricollego un attimo al 77 perché è il medesimo ragionamento che viene fatto. Comunque l'autonomia operaia è talmente forte, ha dimostrato di essere talmente forte, di essere ormai un fatto oggettivo all'interno della lotta di classe in Italia, che come organizzazione noi non intendiamo più intervenire all'interno delle lotte autonome operaie, ma interveniamo con le brigate di fabbrica. Quindi la nostra attività è il fulcro della nostra attività politica, è la brigata di fabbrica, e gli organismi autonomi operai sono delle cinghie di trasmissione. Un ragionamento, infatti da quel momento lì in realtà le Brigate Rosse non si rivolgono più, questo lo dico perché l'ho letto nel libro di Nicola De Maria, quello che abbiamo presentato qui, Guerriglieri nella metropoli, che candidamente lo ammette, che in realtà non si rivolgono più all'autonomia operaia, ma fanno semplicemente un ragionamento di reclutamento per la costruzione del Partito Comunista Combattente in odore, ormai nel 73, non ancora, ma di fatto in quella direzione, dell'attacco al cuore dello Stato. Un ragionamento completamente opposto, ma che poi va comunque nella direzione di un'accelerazione nei termini di lotta armata, viene fatto per esempio dall'area di alcuni fuoriusciti della lotta continua della sezione di Sesto, quelli che andranno a formare i comitati comunisti per il potere operaio e senza tregua, e che poi a loro volta nel 77 come percorso accelerano ulteriormente e formano Prima Linea, le Unità Comuniste Combattenti, Cocorì. Ti sparano per prima loro delle mie. Sparano per prima loro delle mie. Sì, volendo. Questi invece fanno un ragionamento completamente opposto. Loro non sono non è l'organizzazione all'interno della fabbrica che diciamo detta i termini del conflitto anche in fabbrica, ma loro si considerano uno strumento di servizio di questi organismi autonomi, dei comitati operai, l'assemblea autonoma, eccetera eccetera, e quindi diventano come loro, diciamo, strumento di servizio sempre nei termini di una sponsorizzazione dell'armamento proletario, dell'armamento operaio, dicevano. Quindi diciamo che il risultato finale è sempre la costruzione di organizzazioni comuniste combattenti, in questo caso in lotta continua è esattamente l'opposto invece. Però comunque si verifica questa accelerazione, un'accelerazione che poi viene data ancora ovviamente dal golpe cileno, dove anche lì ci sono opinioni completamente diverse e quindi separazioni anche del ragionamento politico, e non parliamo del compromesso storico. Io su questa cosa qui dell'accelerazione io la vedo anche una questione quasi soggettiva, quasi esistenziale. Cioè, in effetti, al di là di questi fatti, è anche vero che dall'altra parte, diciamo, era in pieno dispiegamento a livello mondiale, e in Italia cominciava a avere, sempre nel 73, un grosso dispiegamento, che poi nel 77 è chiaramente visibile, che è la ristrutturazione economica. E quindi c'è anche la crisi economica, che vuol dire da una parte, per chi è riuscito a leggerlo, la fabbrica diffusa, la territorializzazione, l'automazione, quindi un nuovo modo di produrre, un nuovo mercato del lavoro, e quindi anche una nuova soggettività di classe da una parte. E quindi chi riconosceva, come per esempio le Brigate Rosse, ma anche l'area di Senza Tregua, la centralità della classe operaia intesa come dei grandi stabilimenti, diciamo quella classica, diciamo quella dei lì, quella di fabbrica. Chiaramente nell'analisi che viene fatta anche da loro, forse non è chiaro, ma secondo me la fanno anche loro, c'è questa consapevolezza che in qualche maniera il tuo soggetto di riferimento sta andando non a esaurirsi, ma comunque a diminuire il proprio impatto sociale, economico e politico. Non dimentichiamo che la classe di operaia deve dirigere tutto, se è egemone, se non è egemone non può dirigere la classe, giusto? E quindi anche la consapevolezza di cominciare a avere questa, tra virgolette, tu dicevi prima il mare in cui nuotare, in qualche maniera era anche quello, ha portato secondo me a anche un'accelerazione. Cioè, io dico esistenzialismo, un po' una parola un po' grossa, però forse un po' si rifà a quello che dice lui al post 77, no? Cioè, davanti a una situazione di sbocchi, diciamo, limitati, la volontà, la ricchezza anche delle persone di qua di là deve trovare in qualche maniera uno sfogo, e l'ha trovato così. No, siccome giustamente dal fondo una compagna ci fa presente anche una questione internazionale, cioè nel senso di come era collocata l'Italia dentro forse ancor più colonia americana di quanto poi gli anni successivi hanno visto. Però su questo piano, mentre l'osservazione può essere pertinente ad essere presa in considerazione, però non dimentichiamo che l'Italia è stato un laboratorio politico incredibile, perché questo 68 per comunità di linguaggio è durato 15 o 20 anni. Quindi, allora venga lei che così me lo dice un po' più. Vieni qua, tieni di qua. No, volevo dire che insomma il 73 evocato giustamente il golpe in Cile, che dà la spallata al progetto del compromesso storico, sta dentro un momento per cui si pensa che tutta una serie di insorgenze europee e quant'altro siano da mettere a tacere. C'è quella preoccupazione lì da parte dei partiti, della sinistra storica, eccetera, eccetera. C'è per contro un altro problema ancora. Inizia lo sgretolamento dell'est europeo, che concretamente si concretizza nel 79 in Polonia, ma crea un altro tipo di squilibrio. Quindi c'è un po' la percezione fra tutti che ci sia un rischio, ma questo ha radici, diciamo, nel percorso italiano fin dalla Resistenza, che la collocazione dell'Italia sia questione che si gioca su tavoli internazionali anche. Poi questo non toglie nulla all'eccezionalità dell'ondata di un decennio intero di lotte, ma ha un contesto che si gioca già dal 43, insomma, e che ha un filo che si combina con vari passaggi. La seconda cosa che a me incuriosiva, io ricordo in quegli anni un corso di Bianca Beccaglia, Sociologia del Lavoro, sui non garantiti e sulla teoria della rottura dell'alleanza con la classe operaia, che diventa, se vogliamo, poi clamorosa a Bologna, diventa essenziale per certi aspetti a Milano e inizia sicuramente il processo della ristrutturazione produttiva. Ma perché? Perché proprio si stavano aprendo i mercati dell'est, che andavano a potenziare un mercato di sbocco e di approvvigionamento della manodopera. C'è l'automazione, la Silicon Valley, quindi arriva la robotica, e quindi tutta una serie di innesti e di processi si incrociano, come dire, in maniera, fra virgolette, perversa in questa accelerazione. Grazie. Vieni. Vuoi sederti? Io vorrei, mi sentite? Okay. Vorrei limitarmi solo al 77 in particolare, perché è di questo, no? L'anno di cui stiamo parlando. Allora, il 77 fu un anno di un movimento estremamente ricco e vario, in cui la violenza era diffusa, tutti erano violenti. Io mi ricordo compagni di lotta continua che mai avrebbero fatto parte di un'organizzazione armata, che comunque quando ammazzarono i compagni tedeschi si misero lì a organizzare attentati, eccetera eccetera, e lo so, poi non successe niente, l'abbiamo trovato, per essere un segno, però è così, veniva spontaneo e normale. Certo. Un'altra questione, nel 77 quante erano le organizzazioni combattenti? Brigate Rosse, NAP, due, giusto? Sbaglio? Nasceva prima, nasce tutte le altre vengono fuori dopo, cioè la fine e la sconfitta del movimento del 77 che crea tutta questa massa di compagni che decidono di combattere. Perché? Perché appunto era un movimento estremamente radicale, era estremamente deciso, e alla fine quando perde resta l'estremismo, tra virgolette. Cioè, in ogni caso, mi viene da ricordare quello che diceva di Guy Debord nel film In giro Mimus Nocte, con la scena della carica della cavalleria balaclava, e dice: noi ci lanciammo contro il vecchio mondo e andammo a sfasciarci lì, però non potevamo fermarci, non volevamo fermarci. Questo è quanto. Quindi la problema della analisi storica è un problema da risolvere in senso complessivo. Il movimento del 77 fu un movimento che aveva un punto di vista della totalità. C'era una critica radicale del sistema capitale, della vita quotidiana. È interessante, non so se voi l'avete letto, è interessante secondo me molto quel testo di Simonetti, di Sanguinetti, Un orgasmo della storia, sul movimento del 77. Lui dà un'idea complessiva della ricchezza umana, al di là poi delle liti dei gruppi politici, perché dobbiamo, se io almeno me lo ricordo vissuto in questo modo qua, il movimento del 77 fu un movimento profondamente critico dei gruppi politici. Fu un movimento, io mi ricordo che io dicevo, ma quelli come me dicevano, francamente, degli operai, cioè di andare a lavorare in fabbrica, ma no, noi rifiutiamo il lavoro salariato, noi siamo contro. Quindi si trattava di andare oltre gli schemi e si andò oltre gli schemi, fu la fine naturalmente, no? Oltre gli schemi leninisti, PC, sindacato, uno slogan che a me piaceva tantissimo del 77 era in Cile i carri armati, in Italia i sindacati. Era una cosa che eliminava qualunque mediazione con questi, non c'era possibilità di discutere. Mi ricordo un vecchio partigiano del militante del PC di Alessandria che continuava a dirmi, ma tu devi entrare nel partito, c'è una gente come te. Io dicevo, ma io quel partito lì mi sta troppo sui coglioni. Non lo capiva, cioè accettava, voleva, aveva un'idea da secchia, da continuiamo la resistenza, ma in un contesto che lui non comprendeva, c'era una differenza culturale gigantesca. Comunque, io mi ricordo i ragazzini di Milano di 15-16 anni, cioè non gli andavi a parlare di Lenin a quella gente lì, voglio dire, facevano, era più facile per loro occupare una casa, fare uno scontro con la polizia, che è passare due ore a leggersi un bollettino, un comunicato maoista, un marxista-leninista. Boh, detto questo. Però, cioè, avete capito qual è il senso del problema? Se si vuole fare un discorso così di analisi storica, ecco. Perché... No, riprendo questo discorso nel senso che io ho detto alcune cose, ma per correttezza Emilia ha spiegato che il libro... e sulla parte, cioè non ha come oggetto il movimento del 77. Dopodiché io capisco bene quello che vuoi dire, anzi ti dirò di più, per questo facevo quel discorso sul ragionamento di Marco. Io ricordo bene, cioè al convegno di Bologna non si sono scontrati la parte di lotta continua e l'autonomia organizzata. Io che venivo da lotta continua, a parte che la lotta continua era finita un anno prima e a parte che gran parte di noi aveva fatto già il 76 mezzo fuori e mezzo dentro e a parte che al giornale c'erano, guardatevi il docufilm che hanno fatto su Netflix di lotta continua, c'era Lerner e Sinibaldi e compagnia cantante, che figuriamoci se poteva rappresentare quelli che c'erano lì. Lì si scontravano proprio due forme diverse, che la prima cosa che mettevano in discussione era la concezione del partito, dell'organizzazione, cioè una parte usciva fuori dalla tradizione socialcomunista, contestava completamente, per questo dicevo prima che si poneva fuori dalla 34esima lezione e non dentro la tua. Io azzarderei anche un'ipotesi. Il 68 era stata, come dire, possiamo definirlo così, la traduzione possibile in Occidente del 17, come era possibile. Il 77 fa i conti con quella traduzione e con quella tradizione, rompe completamente con quella tradizione nel suo complesso, va bene. Poi, finito il movimento, è chiaro, l'ho detto, noi siamo saliti su una macchina che era vecchia in realtà, no? Per fare una metafora, mi ricordo un vecchio libro, no? Che si chiamava Giochi finiti e giochi infiniti, no? E facevo una disamina del giocatore finito, no? E dei giochi finiti, che erano, come dire, un campo, delle regole, prevedere le mosse del nemico, quanto più ne prevedi, quanto più ne fai. Il giocatore finito per definizione è il giocatore di scacchi, va bene? Poi definiva il giocatore infinito, che è uno che non rispetta un campo determinato, non rispetta le regole. L'unica regola che ha che il gioco si possa riproporre all'infinito, il giocatore infinito per antonomasia era l'amante. Il movimento del 77 voleva dire che bisognava essere più amanti e meno giocatori di scacchi. Noi abbiamo continuato a fare i giocatori di scacchi e abbiamo perso. Questo è il problema. Visconte! No, volevo dire che sono abbastanza d'accordo con quanto diceva prima Emilio, cioè il modello della lotta armata, parlo soprattutto delle Brigate Rosse, era la guerriglia, quella particolare sudamericana, Tupamaros e altre formazioni di quel tipo lì. Fino al 73. No, no, sempre. Sì, c'è un'altra riflessione che faceva pure Emilio prima, cioè si può considerare la lotta armata come il colpo di coda di una composizione di classe che stava terminando, cioè quella del proletariato industriale, della classe operaia di fabbrica, della centralità della fabbrica, che diciamo c'erano tutte le cose che sono state dette sul precariato, sul cambiamento della produzione, eccetera, eccetera, che determinavano, diciamo, la fine di quella composizione di classe. Ma era anche la fine di una certa politica che aveva caratterizzato quel movimento da 100 anni, cioè la presa del potere, l'insurrezione, cioè la presa del potere politico come premessa di un cambiamento sociale che poi non c'è stato, ovviamente, nella rivoluzione del 17. Quindi, diciamo, anche quella diciamo, forma politica che aveva caratterizzato quel movimento operaio era praticamente alla fine. Però devo dire che non credo che le Brigate Rosse, appunto, fossero leniniste. Cioè, non è per difendere Lenin, ma Lenin non ha mai parlato di guerriglia, cioè era profondamente legato al movimento di classe come si svolgeva a quel tempo nella Russia e anche nell'Europa, e diciamo l'aspetto insurrezionale al limite era la parte finale di un processo, ma che doveva avere un appoggio di massa, quindi i soviet, eccetera, eccetera. Quindi non direi che le Brigate Rosse erano leniniste, cioè, anche se adesso questo tipo di, diciamo di, appunto, questo tipo di cultura, cioè non è più attuale, vogliamo quella leninista, per carità, non dico questo, va riformata, però non credo che le Brigate Rosse fossero leniniste in questo senso. Piuttosto, appunto, erano legate a questo modello della guerriglia o della guerra civile continua, cioè quello che è stato detto prima, eccetera, eccetera, che neanche quella poi si è rivelata alla fine come modello perseguibile anche nel capitalismo avanzato, diciamo. E quindi a questo punto bisogna ripensare un po' tutto, evidentemente, se da questa esperienza che abbiamo vissuto ripensare quale può essere lo svolgimento di una rivoluzione sociale, politica forse un po' di meno, secondo me, comunque dovremmo riprendere la discussione partendo da quello, ma andando avanti su questa linea. Se c'è qualcun altro, vieni, c'è il modulo, lo riempie. No, quello che voglio chiedervi, premessa, io sono del 74, quindi non magari, no, quello che non capisco è, siccome stiamo parlando di una sorta di consapevolezza del fatto che il sistema produttivo stesse cambiando, che la centralità del, come dire, dell'operaismo fosse già in declino, allora io quello che non capisco è se la lotta armata è una sorta di, come dire, giapponese che continua a fare la guerra nella boscaglia e quindi c'è già, come dire, la consapevolezza della fine e si va a sbattere contro il muro, oppure in realtà c'è un sogno reale di cambiamento, cioè, come dire, è uno spontaneismo giovanile, no? Per cui c'è un qualcosa da tirare fuori e che deve emergere anche se si sa che non porta da nessuna parte, oppure, come dire, questa analisi che viene fatta adesso e che io ho letto già su diversi libri è un'analisi di oggi, cioè è questo che non ho capito. Ma io, la notola di Minerva spicca il volo sempre sul far del crepuscolo. In realtà noi, quando abbiamo incominciato a leggere questa cosa, le cose erano iniziate già prima, non c'era questa consapevolezza. Cioè il periodo 73-75, secondo me ben descritto nel libro di Primo Lordadoro, no? Ci sono cambiamenti fondamentali sulla composizione di classe, e in quel movimento a cui lui faceva riferimento, i preca, cioè quella composizione era già mutata, ma che ci fosse la consapevolezza, cioè il dibattito che riporta Emilio sul 77 di alcune organizzazioni armate, esiste la centralità operaia nel 77 ancora intatta, precisa, no? E ci sarà anche per il 78. Questa consapevolezza non c'era, nonostante la nostra composizione fosse ampiamente cambiata. È stata dopo che noi abbiamo letto in questo modo, per cui dico che sai le cose quando i processi sono già andati a termine, insomma. Per cui io questa idea che la lotta armata si è ampliata perché la gente era disperata e pensava, non ho mai pensato questo, e non vedevo nella gente questa idea. Io dico che, per questo faccio l'esempio, noi abbiamo continuato a fare i giocatori di scacchi pensando che la partita si giocasse a scacchi, e la partita si giocava altrove, per composizione, per strategia politica, per composizione sociale, per innovazione, cioè di ciò che dovevi trovare, no? Per uscire fuori, per gli strumenti nuovi che dovevi trovare, va bene, e ce ne siamo accorti. Secondo me la consapevolezza di tutti è arrivata 81-82, dopo, già dopo la marcia dei 40.000 a Torino, i licenziamenti, eccetera, e poi soprattutto a Babbo Morto, quando nelle Berlinguer va fuori dai cancelli della Fiat, abbiamo capito che era Babbo Morto, cioè la consapevolezza è avvenuta in quegli anni. Qui almeno penso a livello generalizzato. No, perché mi viene in mente una cosa, no, per dire il 77. Noi abbiamo fatto una bellissima mostra qui, no? Che si chiamava Autonomy Punk. Hippie Autonomy Beat Punk. No. Il 77 c'erano tutti questi, no? Ma le elaborazioni politiche su queste erano pochissime, va bene? Per questo io dicevo che noi abbiamo continuato dentro quello che diceva Visconte, ciò che da 100 anni, no, ci portavamo, abbiamo continuato imperterriti, insomma, quando dicevo le armi della crisi, cioè l'idea che a un certo punto lo scontro sociale e politico dovesse avere un momento della presa del potere era nel nostro DNA, va bene, non c'è ombra di dubbio. Era dentro il nostro DNA e tutte quelle accerazioni a cui faceva riferimento Emilio, uno non le fa se non ha quel DNA, se la sua prospettiva non è quando può prendere il potere o meno. Era dentro quella lì, nonostante si stesse sgretolando già allora, non so se ho risposto, cioè la consapevolezza è dopo che... Ti ripeto, ma è sempre così nella storia, eh? Lo aveva capito Hegel, quindi la filosofia della storia è sempre così. Te ne accorgi quando i processi sono già determinati. Sì, chi è che voleva dire? Ah, vieni. Dagli il coso. Vieni. Ciao. Ciao. Tu mi conosci. Niente, io ho qualche perplessità. Ho qualche perplessità sulle cose che ho sentito, sono arrivato tardi, quindi nel senso che ho la netta impressione che i processi descritti, non ho letto il libro quindi non ho idea, ma che i processi descritti si abbiano comunque il vizio d'origine della contraddittorietà. Il movimento prima degli studenti, a partire dal 67-68 e successivamente, è stato un movimento, dal mio punto, per quello che ho vissuto io, è stato un movimento che tendenzialmente aveva un rapporto conflittuale con il Partito Comunista Italiano, che inevitabilmente vedeva come antagonista non solo il luogo comune del mai nessuno a sinistra del partito, insomma, ma aveva anche la logica, la mentalità del il Partito Comunista deve gestire tutto il conflitto sociale, tutto il rapporto con la classe, perché in Italia la spartizione Stati Uniti, Unione Sovietica è tale per cui se andiamo oltre una certa forzatura gli Stati Uniti ci invadono, eccetera. La storia poi della Gladio Rossa, la storia poi della Gladio, quella nera, le stragi di Piazza Fontana e tutte queste robe qui. Queste cose hanno prodotto in questo paese dei momenti di scontro enormi, ma a sinistra lo scontro più grosso è nato, dal mio punto di vista, e non ho preteso di avere nessuna verità in tasca, ma dal mio punto di vista e per la mia esperienza, ha avuto uno scontro enorme con il Partito Comunista, che ha cercato fino in fondo di boicottare qualunque tipo di lotta, non solo operaia, perché voleva governarla, e quando si è accorto che non poteva più governarla, ha cercato di intervenire pesantemente. Non dimentichiamo che il Partito Comunista, quando c'è stata la strage di Piazza Fontana, è stato fra i primi a dare l'assalto agli anarchici, a dire questa è una strage degli anarchici, quindi noi non siamo con gli anarchici. Quindi non ha difeso assolutamente l'idea, anche solo l'idea che quella strage potesse essere degli Stati Uniti, quindi di destra e compagnia bella, non l'ha fatto, non solo non l'ha fatto, ma ha anche dato una copertura politica, ripeto una mia opinione, una copertura politica pesantissima e mostruosa con il giudice che era D'Ambrosio, quello che ha assolto Calabresi, che ha assolto tutti, eccetera. Allora c'era una presa di posizione che oggi era difficile assolvere. Sì, no. Sì, no, non, assolvere comunque, no, no, ho capito la, la battuta, ma voglio dire, ecco, oggi non solo viene assolto Calabresi, ma viene assolta tutta quella storia. Allora, le BR leniniste, ma le BR a mio avviso sono, hanno avuto una spunta sicuramente leninista. E il Partito Comunista, no, nella sua storia, no, sì, no, poi all'interno delle BR, soprattutto le prime BR, chi ha conosciuto Piero Bassi, chi ha conosciuto Renato Morucci e Moretti, appunto, chi ha conosciuto Moretti, ma soprattutto Curcio e via dicendo, sa che comunque c'era un'impronta di quel tipo lì. Ecco, quindi è difficile poter dire le cose sono andate in una maniera invece che in un'altra. Io sono convinto, tu dicevi di no, ma io sono convinto che c'è stato comunque un momento alla fine degli anni 70, inizio anni 80 e via dicendo, in cui il gioco era un po' da giapponesi nella serie, ce la giochiamo fino in fondo, perché comunque il Partito Comunista, che abbiamo sempre detto che era un traditore, che erano quelli che stavano sposando il capitalismo e cercavano di giocarsi, poi la storia ha dimostrato che così è stato, perché sono diventati liberisti, sono diventati quello che sono. No, non nel 77 no, però nel 77 ricordiamo Bologna, che ha cercato di fare fuori il movimento in tutte le maniere, insomma. Appunto, quindi, ecco, è stata una storia estremamente contraddittoria, e oggi poterla categorizzare in una maniera invece che con l'altra è estremamente difficile. Poi io credo che sia un esercizio un po' ozioso, perché poi dopo cosa ne viene fuori? Oggi parliamo di RDC, di reddito di cittadinanza, per salvare quel poco che è salvabile del reddito della povera gente, ma non parliamo di RDC in termini di ricomposizione di classe, che è quello che ci vorrebbe, insomma. No. Ci vorrebbe, perché ormai gli ultimi e i disperati non hanno più una classe di rappresentanza, non hanno più una RDC come elemento di ricomposizione strategico, e quindi mi sembra che ci siano tutti gli estremi per una sconfitta, no, di lunga durata, purtroppo. Adesso? Sì, no, no, appunto. No, ma sto parlando del futuro. Sto parlando del futuro. No, finché, no, non dico, non voglio parlare, usare una parola quasi blasfema, cioè, finché non c'è una qualche organizzazione, no, ma più che un'organizzazione in termini di organismo, una qualche elemento di movimento che spinga verso una ricomposizione di classe, che poi farà generare un'organizzazione, un qualcosa che unifica. E questo credo che sia l'enorme problema che hanno di fronte le nostre generazioni. Parlo, penso a mia figlia, penso ai figli di ciascuno di noi, per chi ne ha, dicendo, scusate la lungaggine. Anche noi stessi. Tutto sommato, no. Grazie, no, grazie a te. Siamo ancora morti. Vieni, caro. Pubia, se l'ho visto. Ah no, ci dobbiamo sentire. No, ma allora è difficile un po', almeno per me, intervenire su queste cose, però penso che qualcosina da dire ce l'ho, ci sia. In quegli anni lì, che sono stati per me degli anni meravigliosi dal punto di vista individuale, ma qui entreremo nella memorialistica delle persone. È vita fino in fondo, tra virgolette ci abbiamo provato, questa cosa, questo afflato ci deve essere per ricostruire la cosa. Ho fatto parte di questo movimento, e tra questo movimento l'ho vissuto in una città come Bologna, in cui nel 77 era predominante una componente che era contraria alla lotta armata, contraria all'ipotesi di lotta continua. Si autochiamava desiderante, cose del genere, queste cose qua. Ma ha poca importanza questo. ha importanza il fatto che ci si è mossi in quella dinamica, si è vissuti delle cose e a un certo momento, ci piaccia o non ci piaccia, almeno secondo me il bilancio che ne ho tratto, e l'epilogo è questo convegno sulla repressione del 77, che io personalmente mi sono ritrovato in mezzo a questo scontro, dovevo intervenire sulla repressione, i compagni incarcerati a Bologna, ho fatto il mio interventino, ma diciamo di questo non gliene fregava più un cazzo di nessuno di sta roba qua. Perché il movimento era arrivato alla sua fine, bisogna dirsele secondo me queste cose, alla sua fine nel senso che non è stato capace di darsi una prospettiva politica che andasse oltre, che diventasse per tutto l'errore più grosso secondo me, movimento, gruppi, lotta armata, non vedere al di là del proprio orizzonte immediato. Alla classe operaia, all'insieme della società, non ci eravamo arrivati. Eravamo un po' di massa, ma non quella massa necessaria ad andare a rompere tutto quanto il meccanismo. Sì, l'autonomia, ma non solo, eccetera. Però, secondo me, ci piace o non ci piace, io non ho fatto quella scelta, l'ho combattuta politicamente. I gruppi della lotta armata hanno dato una risposta politica a quella crisi che si era generata nello scontro di quella fase. Giusto, sbagliato, possiamo entrare. Per me era sbagliato, possiamo entrare. Ma col senno di poi, per me le BR non erano leniniste, erano riformismo armato, lo dicevo allora, l'ho detto nel corso della battaglia. Diverso potrebbe essere il discorso di prima linea. Con questi qui mi sono trovato con gente che ti diceva che tu eri un parolaio, che non facevi lotta armata, e qualche anno dopo diceva che tu eri quello che continuava la loro esperienza, lo diceva di fronte ai giudici, cosa non molto piacevole, però era questo. Ma il dibattito politico noi l'abbiamo vissuto fino in fondo. Ma penso che una delle cose da ricordarci di quel periodo, che ci sono state delle acquisizioni che dovrebbero essere un fatto comune un po' di tutti, che ormai mi sembrano perse. L'esperienza che abbiamo avuto col PC, ad esempio, dovrebbe dirci qualche cosa, e veniva da qualche anno prima che tutti noi si facevano le contestazioni ai comizi sindacali, cioè al servizio d'ordine, non credo che parte del 73 queste cose. Nel 76 Berlinguer dice che la NATO è l'ombrello protettivo verso cui noi vogliamo stare. Nel 77 tu inizi a fare delle lotte sociali violente, più o meno inizi a rompere i coglioni. A Bologna il PC era la tessera del pane, chi gestiva gli affitti irregolari contro l'equo canone, che era legge di allora, era il PC, non era qualcun altro. E il PC è diventata la forza che ha detto chiaro e tondo, con prassi politica e scelte, che chiunque si opponesse allo status quo, che cercasse di organizzarsi e avesse anche, andava criminalizzato, né più né meno. Bologna è stato questo, Zangheri era questa cosa a Bologna, e non si è conservato questo tipo di bilancio. Ancora oggi c'è chi ti racconta che devi votare per gli epigoni, che rispetto a loro sono una cosa, cioè il PC erano di estrema sinistra, ma dovremmo votare il PD perché devi combattere la destra, eccetera. Mentre lì abbiamo avuto l'esperienza concreta che il PC, questa forza che derivava dallo stalinismo, era contro qualunque rivoluzionamento sociale, si metteva lì in mezzo, era di quelli che ci aveva mandato gli autoblindo a Bologna per bloccare quello che stava venendo, con tutti i suoi limiti, le sue cazzate. Non sto dicendo che noi abbiamo fatto tutto giusto e cose del genere, ma per me era questo. Poi l'altro bilancio che dovremmo, secondo me, sempre ricordarci, dovremmo arrivare a una valutazione, a un bilancio, eccetera, sì, di quel periodo, con rispetto di chi è dentro e che sta pagando, che per me è fondamentale. Ma una cosa era il bilancio dello Stato. Lo Stato, allora abbiamo capito e vissuto, non è di tutti. Allora c'era chi diceva né con lo Stato né contro le BR. No, col cazzo, devi essere contro lo Stato, e poi se non condividi la politica delle BR dicevi contro la politica delle BR. Ma questo è un altro tipo. Il discorso era all'interno di movimento, andare a determinare, ma con quello Stato non avevo niente da discutere. La scelta di fare azioni violente, lotta armata, eccetera, era implicita. Venivamo da un'esperienza, io non l'ho vissuta per età del 68, eccetera, ma che è cresciuta, che insomma non è che se tutto si racconta che si deve fare per finta, per forza, così, perché si deve dire poi vai a votare PC e si risolve lì. C'è chi ha voluto cercare di fare questa cosa. Poi in tutto questo dovremmo ricordarci, si è tanto parlato della dissociazione, tutto, il 90% si è dissociato, ma allora se io faccio delle scelte politiche, se lo dicono una certa parte, però un conto è se io decido che la mia esperienza l'ho sbagliato, ho sbagliato io, eccetera, questa cosa ci sta, non è che hai firmato un contratto a vita con l'organizzazione X. Un'altra cosa è iniziarmi a dire non solo che non sei tu che hai sbagliato, ma è che la lotta di classe non esiste più. Iniziare a dirmi che il capitalismo va bene, eccetera, che non ci sono problemi, che non ci sono contraddizioni. Abbiamo il documento del 51 dei Re Bibbia e altre cose che dicono queste cose. E il problema è che, dimmi. Personalmente sono d'accordissimo con quello che sta dicendo. Quello che purtroppo è venuto fuori nella memoria della gente, no? È che gli sociali, il 90%, che i dissociati, vabbè, sono comunque parte della storia del movimento. Mentre invece la cosa insopportabile dal mio punto di vista è che i dissociati, no, in qualche modo sono accettati, ancora oggi accettati come parte di quella storia. Mentre andavano in televisione a piangere con scalpali, eccetera, per gli errori fatti, per le porcherie che avevano fatto, perché la lotta di classe interpretata da loro era tutto sommato una porcheria. Dal mio punto di vista la dissociazione ancora oggi andrebbe stigmatizzata in termini di rifiuto e di tradimento comunque. Non hai firmato, come dicevi tu, un contratto a vita, giusto, sacrosanto, quello che vuoi, ma dai tuoi cambiamenti di opinione non puoi ricavare dei benefici penitenziari, dei benefici economici, delle carriere. Su questo siamo completamente d'accordo. Perché la stragrande maggioranza, per non dire la quasi totalità di prima linea, e una bella fetta di DR hanno fatto. No, volevo dire e rispondere un po' a Francesco, allora, e anche all'intervento suo, sul ruolo del Partito Comunista. Sfondiamo una porta aperta, non solo per l'idea che diceva lui che ciò che ha guidato il Partito Comunista è nessuno alla mia sinistra e quindi ha massacrato sempre di più quelli che c'erano a sinistra che gli altri, da chiunque, anche se diciamo non ho molta simpatia per Secchia, però diciamo e non voglio ricordare che il documento di Torino sulla delazione viene fatta dal Partito Comunista, no? Dalla sezione del Partito Comunista di Torino, l'inchiesta su con Giuliano Ferrari, esatto, viene dal Partito Comunista. Per quanto riguarda la dissociazione e il pentitismo, rimando a tutti al lavoro che noi abbiamo fatto in archivio, si chiama Pentola e Coperchi, che abbiamo fatto un lavoro su questo. Però voglio dire una questione fondamentale su questo problema della dissociazione. Giuliano Spazzali una volta dette una ottima interpretazione, secondo me, no? Specie all'inizio, si parlava dell'inizio degli anni Ottanta, e quando discutevamo di questa cosa lui disse: guarda, chi ha una logica militarista quando sta perdendo passa nell'esercito opposto. È l'interpretazione forse meno politica, ma forse più autentica della questione. Cioè lì c'è stato, come dire, quando uno pensa che l'unica sua dimensione è la guerra, deve passare all'esercito opposto, ed è stato questo fondamentalmente il problema della dissociazione. Per noi, io dico, per questo parlavo prima nel ritardo della memoria storica, della ricostruzione storica che faceva Emilio nel suo libro, quella è stata una cesura che ha, come dire, rotto la soggettivizzazione, ha rotto la capacità di ricostruzione del soggetto. Dopodiché, voglio dire, la pletora dei dissociati è infinita, non è che bisogna... si sono dissociate persone nei nostri processi che non avevano nulla da scambiare, no? E quindi si è dissociato chi aveva da scambiare e quindi ha avuto benefici. Si è dissociato chi ancora oggi paga il tributo a quella dissociazione. Leggetevi alcune cose che dice Franceschini e sono robe da mettersi mani nei capelli. Però la pletora è diversa, va bene? Il mio amico Corrado Alunni era un dissociato alla fine, ma cioè, non è da confondere con, non per difendere Corrado, cioè, voglio dire, non è da confondere con Melma che si è diciamo macchiata di reati e di amandati. Sulla cosa del 51, che era stata prodotta dall'area dell'autonomia, no? E una parte poi, perché poi Leoni, Lapponi e compagnia cantante venivano da un'altra esperienza. Io me lo ricordo quel documento, ero in carcere e non lo firmai, e non lo firmai per tre motivi, perché allora, anche qui la nottola di Minerva, allora non si parlava di dissociazione, il termine dissociazione è venuto dopo, no? Si parlava di aree omogenee, di cose eccetera eccetera, il termine dissociazione è diventato... Già allora si parlava all'interno delle carceri di dissociazione ed erano già partite le contrattazioni con il ceto politico di potere per il documento del 51, è stato concordato con il ceto politico. Sì, il documento del 51 che fanno a Re Bibbia. Omogenee erano il premio richiesto, per firmare quel documento. Ti sto dicendo, io non ho firmato quel documento perché in quel documento c'erano tre bobboni che non mi convincevano. Il primo era l'introduzione, cioè io avevo accanto i compagni dell'EBR con i quali dissentivo da anni, va bene, però mi sembrava assurdo in quel documento che vi fosse una sorta di equiparazione tra quello che io avevo accanto e i pentiti che le persone in galera ce li mandava. Era il primo motivo. Il secondo motivo è che quel documento a un certo punto chiedeva allo Stato la protezione, perché era successo Ennio Di Rocco e compagnia campagna, della protezione, e che la sua parte finale, noi non lo sapevamo all'epoca, ma era sostanzialmente la contrattazione degli anni da togliere per la cosa. Io per questi tre motivi non firmai quel documento, pur provenendo da quell'area e dall'area. E soprattutto, cosa che abbiamo identificato appunto in questo documento di pentola di pressione, è che non esistono solo i benefici. Se uno chiede i benefici è perché ci saranno i malefici per qualche altro, va bene? E alcuni di noi che avevano lottato duramente contro questo criterio dell'irriducismo, che non eravamo d'accordo con questo criterio dell'irriducismo, si trovarono irriducibili il giorno dopo, solo per non aver accettato una certa logica, è chiaro? Quindi su questo adesso è inutile tornare, ma che queste abbiano creato e che siano un problema grosso in una ricostruzione collettiva, su questo io non ho ombra di dubbio. Una delle critiche che viene fatto, visto che stiamo parlando del presente, se vi vedete esterno notte, no? Lui si è giustificato dicendo io volevo parlare del partito di regime, no? Ma a parte in una scena in cui c'è Berlinguer che dice contrattate ma non lo dite pubblicamente, il Partito Comunista non esiste, ma noi sappiamo che ebbe una funzione enorme sul problema del rilascio e sul sequestro Moro. L'operazione 7 aprile, il giudice Calogero era un giudice legato al PC, mani e piedi, ma vabbè, no, ormai inutile che vada avanti, ci siamo persi. È sempre lo stesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie Emilio.